Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, sono le 11:09, abbiamo Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, i titoli del nostro sommario. Donne in attesa d'amore. Colon, grande novità in sala operatoria. Piedi gonfi? No problem. Bene, gli uomini preferiscono le bionde e le donne si innamorano dei mascalzoni. Potremmo sottotitolare così la puntata di oggi, in cui ci occuperemo della straordinaria propensione di alcune di noi, non di tutte, ma di alcune, a scegliere uomini sbagliati. I preferiti di solito sono quelli perennemente in fuga, ma oggi vogliamo anche occuparci delle donne che hanno un alto livello di sopportazione, chiamiamolo così, e quindi sopportano di dividere con dei compagni delle storie che dell'amore hanno ben poco, insomma si accontentano. In linea con noi è tornata a trovarci, io sono davvero felice, la dottoressa Gianna Schelotto. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie a lei. Il suo ultimo libro mi è piaciuto, io li ho letti tutti, devo dire che sono una sua fan sperticata, me li divoro. E il suo ultimo libro, da cui prendiamo proprio spunto per la trasmissione di oggi, Un uomo purché sia, l'ho trovato magnifico. Questo mi spiace dirlo, ma i miei ascoltatori lo sanno che dico sempre quello che penso, anche se posso sembrare un po' di parte. Quindi grazie, ne parleremo grazie sicuramente nel corso della trasmissione. In linea con noi do il benvenuto ad un'amica, Cipriana Dall'Orto, è condirettore di Donna Moderna. Ciao Cipriana. Ciao Nicoletta, ciao Gianna e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Però noi oggi abbiamo, non è un gineceo, perché ho chiesto ad un attore che mi piace in modo particolare, che apprezzo e che seguo, di darci la sua voce, il suo punto di vista maschile. In linea con noi abbiamo Joelle Dix, buongiorno. Buongiorno a tutti. Posso darle del tu? No, devi darmi del tu. Ah, magnifico. Ecco, e così intanto saluto mi porto tutti e anche Gianna in particolare. Così intanto, come si dice, Gianna, mi porto avanti, no? Si inizia chiedendo di potersi dare del tu. Senti, voglio tornare a lei per la dottoressa Schelotto. Un uomo purché sia, questo titolo, dottoressa Schelotto, mi sembra che possa fare un po' da denominatore comune di queste situazioni che sembrano lontane. Da un lato le donne che si innamorano di uomini che non si fanno acchiappare mai, le prendono, le mollano, non si fanno sentire, eccetera, e anche delle donne che in qualche modo invece si accontentano, hanno un livello di sopportazione molto elevato, usiamo un eufemismo. Dottoressa. Sì, queste donne delle quali lei parla, o tu parli, che forse è più sciolto, meglio, sì. Queste donne che hanno un così alto livello di sopportazione in realtà hanno un bassissimo livello di autostima, questo sì. È il vero problema, cioè perché riescono a sopportare che un uomo le rispetti così poco, che le tratti male, che racconti bugie, che le inganni, che le tradisca? Perché pensano di meritare non il bene ma il male, quindi è come se avessero bisogno di cercare nel disprezzo di un uomo la realizzazione del disprezzo che hanno di sé. Quindi non, in realtà se poi queste donne incontrano il classico bravo ragazzo che le ama, che le porta i fiori, che le tratta bene, che vuole stare con loro, non riescono a fermarsi ad una persona così, in un rapporto così, perché loro proiettano la disistima che hanno di sé anche sulla persona che si innamora di loro e pensano, se si può innamorare di una di poco valore come me vuol dire che non anche vale lui niente. Ha poco valore. Joelle, ti è capitato di vedere o di assistere a queste storie oppure di esserne protagonista, di essere il bravo ragazzo che in qualche modo è stato rifiutato perché troppo bravo? Beh, non lo so, io sono dell'idea che si debba rispettare le donne. Sono cresciuto con questa idea che fare il bravo ragazzo sia una scelta giusta se non è finta, insomma. Certo. Cioè le donne vanno rispettate e soprattutto la mia esperienza è che le donne hanno due cose che le conquistano, l'attenzione, cioè saper ascoltare, sì. E questo gli uomini devono imparare a farlo. Io forse piano piano con l'età sto imparando a fare questo e anche a ragionare in termini della prima persona plurale, pensare a noi e non sempre a me, no? Io ho degli amici che dicono vado in weekend, sai, poi torno lunedì, dico ah, ma quindi vai da solo? No, vado con mia moglie, ecco, e questa certo. È una cosa che mi colpisce sempre perché è vero. È un modo. E l'altra cosa è la stima, cioè la donna se perde la stima verso un uomo praticamente lo ha già abbandonato nella sua testa, magari non lo abbandona fisicamente, ma e questo è il vero tema, cioè non essere il più possibile onesti, forse anche dire delle cose spiacevoli, lavorare anche per farsi accettare, però ecco, lavorare soprattutto su questo, essere stimabili, e questo è il tema forte. Poi secondo me anche molti uomini si accontentano, per la verità. Ecco, infatti anche di questo parleremo, perché una puntata al femminile, ma naturalmente guarderemo anche l'altra metà del cielo. Cipriana, che cosa vedi come nelle lettrici di Donna Moderna? Si raccontano, le donne sono cambiate in questi ultimi anni o questi tratti di cui noi oggi ci vogliamo occupare prendendo spunto dal libro di Gianna Schelotto sono più frequenti? Breaking news. Tre militari italiani sono rimasti feriti, due in modo lieve e uno gravemente, in uno scontro a fuoco avvenuto poco fa a Farah, nell'ovest dell'Afghanistan. Lo hanno confermato fonti militari. Riprendiamo una brutta notizia, ma Cipriana, riprendiamo. Allora, queste donne si raccontano nel tuo giornale, ti scrivono dal tuo osservatorio privilegiato, che cosa vedi? Ci accontentiamo di più rispetto al passato, di meno? Ma guarda, ci infiliamo in storie sbagliate? Secondo me è veramente un discorso pieno di luce e ombre. Condivido naturalmente molte cose che ha detto Gianna, che poi conosce la parte più intima per la professione che fa, e quindi spesso anche quello che noi non vediamo non appare, no? Però insomma, diciamo che come donne abbiamo anche delle antenne, riusciamo a capire bene cosa provano le altre donne. A me sembra che questi cambiamenti che ci sono stati, cambiamenti sociali, abbiano portato ulteriori tormenti nel cuore delle donne, no? Per cui accontentarsi, non accontentarsi, cioè diventa sempre più complicato combinare una certa autostima che io trovo sempre più donne quasi spaccate in due, cioè che hanno raggiunto un'autostima sul lavoro, dove peraltro devono poi farla valere, Qui è ancora un discorso, e che sul piano privato però sono tormentate, combattute, e a volte si svegliano come da un sonno, no? Come una bella addormentata che per anni ha subito delle cose, poi si sveglia, forse grazie anche a questa autostima conquistata sul lavoro, e dice: ma che me l'ha fatto fare a stare 10 anni con questo qua? Ecco, no? Ecco, quando, come Gioele diceva, la donna non ha più stima nel compagno, nel suo compagno. Però vedi, accanto a queste donne che si accontentano, come dice Gianna, io ne vedo tante, ma tante. Forse parlo anche di una situazione particolare, una situazione metropolitana dove le donne sono anche indipendenti. Io vedo tante donne, tante quarantenni che hanno tutte le carte, sono belle, sono intelligenti, sono autonome, tutte le carte per piacere, e sono sole. Sono sole perché gli uomini scappano da queste donne. E queste donne, io le vedo non accontentarsi, anzi diventare sempre più esigenti, fin troppo, quasi quasi perdono il principio di realtà, cioè vogliono non so che cosa, no? Vedo molte single, di cui ti meravigli. Perché certo, perché non le manca niente. Dottoressa Schelotto. Beh sì, naturalmente, per fortuna ci sono moltissime single che sono contente, al di là di queste di cui parla Cipriana, cioè che poi diventano troppo esigenti, ma ci sono anche delle single che decidono tranquillamente, non avendo trovato la persona giusta, la persona che va bene per loro, vivono tranquillamente la loro vita di single. Però in tutti i fenomeni sociali c'è un avanzamento, cioè si cerca di rompere certi schemi, e le donne di oggi di schemi ne hanno rotte tantissime, ne hanno infranto tantissimi. E poi però c'è la tendenza dei vecchi schemi a ripristinarsi. E queste donne di cui io parlo sono queste donne che soffrono, che stanno male, che pur avendo a disposizione un'immagine di sé tanto positiva, però si sentono mutilate perché non hanno un uomo. Sono proprio le donne che in qualche modo hanno subito una sorta di regressione. Negli anni del femminismo noi gridavamo nelle piazze che una donna ha bisogno di un uomo come un pesce della bicicletta. Sì, l'ha usata proprio come incipit del suo libro. Esattamente, ed era come dire un grido orgoglioso che non era per scacciare gli uomini dal nostro paradiso come Adamo, come Dio ha scacciato Adamo dal suo, ma era soltanto per riaffermare la nostra capacità di vivere anche da sole e di realizzarci anche da sole. Però probabilmente la crisi che stiamo vivendo, la crisi sociale, la crisi economica, la crisi di valore, ha aumentato in molte donne l'ansia della solitudine, ed è questo che le porta poi ad accontentarsi, non importa se non è l'uomo dei sogni, non importa se è un uomo che inganna e tradisce, pur di non star soli si accetta qualsiasi cosa. Insomma, il principe azzurro di cui ci hanno tanto parlato per molte donne non arriva e non esiste. Allora, io volevo chiedere alle mie amiche da casa, ma naturalmente l'invito è anche rivolto ai nostri ascoltatori, di proviamo a riflettere quale tipo di amore stiamo cercando, se siamo donne in attesa dell'amore, e qual è magari quello che stiamo vivendo, quale tipo di amore siamo riuscite a rifiutare e di quale tipo di amore invece non riusciamo a fare a meno. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione. Arrivano già numerosi messaggi, ad esempio il mio è egoista e mammone, ha 43 anni, lui, io 42, non ne vuole sapere né di sposarsi né di avere un figlio, ma io lo amo. Gioele, volevo chiederti una cosa, stimolata un po' dall'intervento di Cipriana. Donne che, insomma, a cui non manca niente, belle, affascinanti, di successo, sicure di sé, che rimangono single, non trovano un uomo che forse le accompagni, e nello stesso tempo tra di noi donne diciamo sì, perché quando una donna è così l'uomo in qualche modo ha paura? Beh sì, l'uomo ha paura, anche perché io parlo per gli uomini della mia generazione, probabilmente noi siamo stati a cavallo di un grande cambiamento che forse ancora non è finito, però quelli più giovani forse lo pagano paradossalmente di più. Noi abbiamo avuto delle donne che orgogliosamente volevano prendere in mano la propria vita e quindi si sono messe un po' paritariamente, scompaginando un po' la nostra architettura, l'idea che la donna ci desse sicurezza, ci desse protezione, anche se poi a sua volta la donna vuole protezione e sicurezza dall'uomo. Allora è proprio difficile questa ripartizione di compiti all'interno. Io sono convinto che sia soprattutto l'ascolto. Prima parlava Gianna, lo ha già citato anche nella presentazione che abbiamo fatto a Genova, questa cosa del paradiso terrestre, no? Della cacciata al paradiso terrestre. Io che leggo e commento la Bibbia in uno spettacolo che faccio spesso, ho scoperto che c'è una traduzione più accreditata della famosa costola, che è in realtà il fianco, cioè Dio, secondo la tradizione, non avrebbe fatto la donna togliendo una costola all'uomo, cioè cosa che per anni serve poco, cioè che non è necessaria, si può campare anche senza una costola, ma gli ha tolto un fianco. Ecco, questa è l'idea che io ho per la mia vita e che vedo che funziona anche per quelli che ci provano, che di provare a stare al fianco, quindi rompendo un po' questo vecchio schema per cui uno deve stare sotto all'altro, no? Ma essere proprio a fianco e provare anche a ripartirsi le cose, tanto è vero che io nella mia vita privata faccio molte cose che potrebbero essere considerate in una vecchia accezione femminili, e non mi preoccupo invece di questo, non mi sento diminuito. Ecco, ci sono forse molti uomini che si sentono diminuiti più o meno consapevolmente dal fatto di doversi occupare anche di cose pratiche che dovrebbero secondo loro fare le donne. Secondo me, se c'è questa capacità di mettersi in discussione, anche l'uomo diventa interessante, non è soltanto inaffidabile e immaturo, perché lo è anche la donna, tutto sommato. Non dobbiamo nemmeno demonizzarlo troppo l'uomo. Se l'uomo è capace di mettersi in discussione e di ascoltare, può dare delle soddisfazioni anche lui, ecco, secondo me. Natalino ci chiama da Pordenone, 824 0024. Natalino. Buongiorno. Buongiorno. Siamo dalla provincia di Padova, c'è stato un errore. Provincia di Padova, la faccia è più vicino allora, mi dica. Comunque, stavo ascoltando, non sono affatto d'accordo che l'uomo scappi, in quanto le donne sì, sono belle, sono attraenti, sono single, posizionate, però alla fine hanno bisogno di non di un zerbino proprio da pulirsi e da pulircisi sopra, ma bensì un tappettino da camminarcisi sopra. Gli uomini non scappano in realtà, secondo me. È solo che le esigenze femminili hanno bisogno sempre di quella delicatezza, hanno bisogno delle attenzioni, hanno bisogno, cioè impongono una linea, secondo me, che l'uomo non riesce in verità a sostenere. Questo è il mio punto di vista. Grazie. In quanto deve investire un sacco di tempo solo per arrivare poi alle cose che alla fine succedono tra uomo e donna. Natalino, grazie per il suo intervento. Dottoressa Schelotto, un commento. Due cose volevo dire. Una è che, peccato che io non me lo posso più permettere, ma Gioele sarebbe un uomo da sposare. Lo so, siamo tutti poi innamorati adesso questa cosa della costola e del fianco. Chissà se anche lui è un uomo, però, insomma, che qualche volta è scappato. Ma, comunque, voglio dire, dimostra sensibilità. E magnifico. Esattamente come noi femministe di vecchia data immaginavamo che dovesse diventare l'uomo accanto alla donna, quindi lui parla di un noi ed è quella sensibilità che porta a far sì che una coppia sia veramente una coppia. E su Natalino bisogna dire che non possiamo generalizzare, voglio dire, ci sono molti uomini che di fronte alla donna realizzata, alla donna sicura di sé, scappano. E pertanto ci sono moltissime donne che si accontentano di uomini che pensano a se stessi, che restano di lato e che non entrano a far parte della coppia veramente. Noi stiamo parlando di questo tipo di donne, cioè di donne che esprimono la loro sofferenza e che proiettano la propria disistima sugli altri, che sono convinte di aver bisogno di un uomo come di una stampella, non come di un compagno col quale condividere il bene e il male della vita. Tante volte però non ce ne rendiamo conto. Quali sono un po' i segnali che ci possono far riflettere? Tante volte la quotidianità passa, no? Giorno dopo giorno, quell'uomo, quella donna, vorrei parlare perché, Gioele, io penso che anche gli uomini, no, rischino un po' di accontentarsi. Assolutamente, intanto volevo evitare che si pensasse che sono così perfetto, nel senso che sono arrivato a questo attraverso un percorso difficile, ho fatto un sacco di casini, ho preso anche delle legnate che servono, proprio in particolare ricordo, insomma, una storia importante che ho avuto con una donna liberata o perlomeno che voleva liberarsi, e io sono proprio passato in quel momento nel quale lei voleva liberarsi e quindi ho preso un sacco di legnate che però mi sono servite, perché ovviamente ho sofferto, però mi sono servite soprattutto per quella cosa che dicevo all'inizio, cioè di imparare anche un po' ad ascoltare. Forse noi, ma questo può essere molto banale dirlo, ma è anche profondamente vero, ci occupiamo e preoccupiamo soprattutto dello stato del nostro amore, no? Di quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno, e quindi vediamo in una persona che incontriamo, ce ne innamoriamo anche subito. Ecco, per esempio noi uomini, forse anche questo le donne oggi hanno più di maschile, che si innamorano subito. Dopo, io ho un'amica di recente che dopo un mese è andata a vivere subito con quest'uomo, contro tutte le logiche, no? Sì. Se n'era innamorata pazzamente. Questa è una cosa molto maschile, di pensare sì, questa è proprio, perché si pensa più che altro al proprio benessere, no? Salvo poi scoprire che invece ci sono un sacco di problemi da affrontare. Non si pensa al noi. Allora, adesso noi abbiamo i mercati. So che Gioele, con grande dispiacere da parte mia, della dottoressa Schelotto e di Cipriana Dall'Orto, deve lasciarci. Io volevo chiederti però, Gioele, dove ti possiamo rincorrere? Beh, dato che ormai siamo tutte un po' innamorate. No, preferirei non facesse questa cosa di rincorrermi, perché non è bella, no? Io faccio quest'estate debutto con uno spettacolo che si intitola Se potessi mangiare un'idea, che è un recital di canzoni di Giorgio Gaber, prodotto dalla Fondazione Gaber, della quale mi onoro di essere anche un socio per l'appunto onorario. È nata questa associazione dopo la morte del grande Gaber, e faccio uno spettacolo nel quale racconto soprattutto a chi non, per motivi di età non l'ha conosciuto, questo grande genio di ironia e anche di profondità che ha saputo appunto declinare l'alto e il basso attraverso delle semplici canzoni che poi tanto semplici non sono. Sarò ad Asti, debutterò al Festival di Asti, poi sarò al Mittelfest di Cividale, poi concludo alla Versiliana il 14 di agosto, una tournée per molti posti belli. E niente, quindi se volete venire senza inseguirmi, però no, perché mi mette certo, ansia, incontrare che è quello che noi ci auguriamo, no, quando anche nelle nostre storie d'amore, di incontrare l'uomo che ci ami, che noi sappiamo amare, andare a ragionare sul noi. Grazie a Gioele Dix, grazie per essere stato con noi. Permettetemi di dire che veramente il libro di Gianna Schelotto è un libro bellissimo, perché non è solo profondo quanto lo sono i suoi libri, che vengono da un'esperienza lunga di terapeuta, ma è un libro bello dal punto di vista narrativo, e quindi lo consiglio davvero agli uomini soprattutto, perché è un modo anche per capire qualcosa in più. Grazie Gioele, buona giornata. Grazie. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di donne, della particolare propensione di alcune di noi a infilarsi in storie difficili, ma anche di donne che, come suggerisce il titolo del libro di cui parliamo oggi, che è il libro di Gianna Schelotto e che parla di donne che si accontentano. Il titolo infatti è Un uomo purché sia, donne in attesa dell'amore. E io resto in attesa delle vostre telefonate 824 0024, ma ho una notizia molto importante da darvi, ci tengo in modo particolare perché è un successo tutto italiano, firmato ancora una volta dall'equipe di chirurgia generale dei trapianti nell'uremico e nel diabetico, diretta dal professor Ugo Boggi dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, allora, io sono molto orgogliosa e direi anche onorata di averne in linea. Mi piace sottolineare che la vostra è un'equipe di giovani talenti e che non è nuova a successi del genere. Ricordiamo il rene prelevato con il robot. Ma professore, verrei alla notizia di oggi. Voi a due pazienti affetti da diverticolite, tra l'altro un disturbo di cui ho proprio parlato ieri con gli ascoltatori, quindi una patologia benigna ma non tumorale, avete asportato il colon dall'ombelico con un'incisione piccolissima. Professore. Beh sì, questa è una nuova tecnologia che sta venendo nella disponibilità e che è quella appunto che prevede di fare un intervento mini-invasivo, ancora più mini-invasivo rispetto al passato, cioè invece di alcuni piccoli fori, un solo piccolo foro che alla fine resta nascosto all'interno dell'ombelico. Professore, le pazienti erano affette da diverticolite, abbiamo detto una patologia benigna, non tumorale, il che vuol dire che questa è già, ci dà indicazioni sulla selezione del paziente? Sì, ci dà un'indicazione, nel senso che è una tecnologia nuova, come tutte le tecnologie nuove, prima di essere validata per il trattamento di patologie maligne, richiede un periodo di, appunto, di validazione, per cui al momento è una patologia che... una tecnologia che può essere utile in patologie di tipo benigno, come per esempio i diverticoli del colon, ma l'abbiamo già anche utilizzata per i calcoli della colecistica, un intervento evidentemente assai più semplice, o per alcuni noduli del surone, quindi sempre per patologie benigne e ben selezionate. Professor Boggi, grazie, complimenti, ci sentiamo grazie presto, buon lavoro, grazie, e saluti la sua equipe di giovani talenti. Grazie. Grazie di tutto, arrivederci. Senti Aldo, mi sembrano delle stupidate quelle robe qua. Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne devi ascoltare Marco Ferradini, è Prassi. Ascoltiamo. Ricominciamo da capo. Cerca di essere... quello che sei. Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema, un tenero amante. Giacomino, comunque, puoi leggere tutti i libri che vuoi, cosa che mi guardo bene dal fare. Vantati, eh. Comunque, Marco Ferradini è un tuttologo sull'amore. Prendi una donna, trattala male. Ma vedi che quando ti ci metti ci sei, sprizza intelligente da quegli occhi. Allora, cerca di essere all'altezza della situazione. Un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere un tenero amante. Lo vedi, pure i fermentilattici lo sanno. Ah, continuiamo, va. Fuori dal letto. Nessuno è perfetto. Nessuna pietà! Nessuna pietà! Ma come devo fare con te? Attitudini sull'amore, nessuna! Scusate, ma io quando li sento veramente mi viene troppo da ridere, ma volevo dirvi che Marco Ferradini è in linea con noi. Ciao Marco! Eccomi qua! Senti, magnifici, Aldo, Giovanni e Giacomo. Chiedimi se sono sentiti. Felici. No, senti, ha fatto un bellissimo regalo interpretando questo brano, veramente. Dottoressa Schelotto, dicono il tuttologo dell'amore, bisogna chiedere a Marco Ferradini. Dottoressa, allora, lui ha scritto una bellissima canzone, devo dire, ha toccato veramente un tema forte, che sembra banale, perché i luoghi comuni si dicono comuni perché capitano a tanti e quindi sono molto forti e molto importanti per chi li vive. Cipriana, esatto. Da Joelle Dix passiamo a Marco Ferradini. Rimane ancora attuale il suo teorema e poi cercheremo di capire quanto c'è di Marco Ferradini in quel teorema. Cipriana. Ma guarda, mi dispiace che non ci sia più Joelle, perché mentre parlava l'avrei detto davanti a lui, diciamo metaforicamente, perché sono al telefono, ma... come mai capita sempre più spesso in queste trasmissioni, collegamenti, dibattiti così, di incontrare uomini che si dichiarano femminilizzati, dolci, cioè appunto quell'uomo da sposare che diceva la Gianna, no? Sì. Mi sembra che, non so, molti si sentano così, non tutti siano davvero così, prima di tutto, no? Sì. E tornando un pochettino a Natalino, che mi ha fatto ridere quando ha parlato del tappetino, mi vedevo questo uomo terrorizzato dalla Virago che tratta l'uomo come... Anch'io sai che ho visto la stessa immagine, è stato efficace. Ecco, molto efficace, no? Che poi il tappetino è quello che le donne hanno fatto per tanto tempo, continuano a fare, però l'uomo si sente tappetino se scende un attimo dal suo piedistallo, eccetera, no? A me sembra... In sostanza, tanto per riassumere, Joelle, Ferradini, Natalino, no? Che ci sia qualcosa tra gli uomini e le donne che manchi nella comunicazione profonda, poi Gianna di questo dire, è maestra, ma al di là poi del fatto chi carica la lavapiatti, chi cambia i pannolini al bambino, così, no? C'è qualcosa che le donne chiedono all'amore, che gli uomini spesso, adesso no. Qua è sbagliato generalizzare, ma io dico spesso, gli uomini non capiscono, non capiscono di cosa stai parlando. Marco, allora passiamo la palla a Marco, ti ritrovi in quello che dice Cipriana? Anch'io ho avuto la sensazione, leggendo le storie, leggendo i libri di Gianna Schelotto, con le storie di amiche, poi ciascuno di noi ha vissuto una storia in cui qualcosa non è andato, c'è stata l'incomprensione, qualcosa è sfuggito. L'incomprensione secondo me è fondamentale tra uomo e donna, perché la donna quando incontra un uomo, forse per far vedere che lei è più moderna, l'uomo dice che vorrebbe un uomo moderno, gentile, che non sia aggressivo, che non sia violento, che non sia il solito prevaricatore, vorrebbe un uomo che la stupisca portandola a ballare, che le regali questo o quell'altro, che la porti al cinema, che si ricordi l'anno in cui si sono messi insieme, tutte le date importanti del loro rapporto, eccetera eccetera, e poi quando trovano un uomo siffatto, dopo una settimana ci stanno insieme e poi lo mollano inevitabilmente, perché secondo me quelle donne hanno un concetto dell'amore molto diverso dall'uomo. Le donne vogliono un concetto dell'amore che sia sempre costantemente un filo teso, l'uomo invece una volta conquistata la donna appende il cappello al chiodo e dice va bene, adesso mi posso dedicare ad altre cose. Di questo poi... parleremo, vuoi aggiungere qualcosa prima della viabilità? Perché di questo parleremo con la dottoressa Schelotto, mi hai stimolato sicuramente una domanda interessante, mi vedo già la dottoressa Schelotto che è pronta no, per uomini e donne così diversi. Marco, volevi aggiungere? No, volevo semplicemente aggiungere che le donne hanno un concetto dell'amore per cui non sopportano di avere tra loro un uomo che le ami più di quanto loro possono amare, perché è come se l'amore fosse solamente loro ad averlo, a darlo, e invece l'uomo deve essere un po' quello che le tratta male, perché sennò non riescono più a considerarlo e non lo stimano più. Insomma, non vedevo l'ora di tornare, perché Marco ci ha detto delle cose su cui mi piacerebbe tornare a discutere. Ad esempio, che noi vogliamo, noi donne, amare di più, no Marco? Abbiamo quasi un po' il monopolio dell'amore quando è grande. Sì, non sopportano che si rivedere attorno a sé un uomo troppo innamorato, anche perché purtroppo c'è da dire che le donne non si stimano molto. Infatti, la dottoressa Schelotto... Infatti, quando trovano un uomo che l'ama troppo, allora dice, ma questo non fa male a me che non mi considero niente. E poi ti dirò, questa canzone è nata da una domanda. Allora, un uomo che chiede a una donna, perché non mi ami? E lei risponde, perché mi ami troppo? La canzone è nata, il teorema è nata così, da questa ma quell'uomo eri tu? Senti, Marco. Quell'uomo ero io, ma non solo ero io, voglio dire che questa canzone è stata scritta insieme ad un grande artista dimenticato che è Herbert Pagani, che anche lui viveva in quel momento la stessa condizione mia. Allora, io prima di sentire la dottoressa Schelotto volevo dare voce a Marco da Udine, che è in linea con noi. Marco? Sì, buongiorno. Buongiorno Marco. Sì. Mi racconti che cosa pensa lei? Ma io sono di Udine, anche se adesso sono in un'altra parte. Beh, non importa. Marco, chiamiamolo così. Io penso che comunque l'uomo e la donna abbiano bisogno uno dell'altro, comunque indispensabile. Questo sì. Anche se in modo diverso. Quindi secondo me anche il discorso del single, che la donna è contenta di rimanere single, potrei prenderla fino a un certo punto, soltanto per una percentuale piccola di donne, secondo me. È la stessa cosa di uomini. Un'altra cosa è che io penso che siamo evoluti in modo diverso negli ultimi 30 anni, anzi voi molto più velocemente di noi, e noi abbiamo difficoltà a evolverci come avete fatto voi. Avete avuto un'evoluzione sicuramente maggiore data dal lavoro e da tutto un insieme di cose, dal sistema di vita che è cambiato, che l'abbiamo fatto cambiare. Noi siamo ancora ancorati a cose un pochettino vecchie, al vecchio concetto, non dico di famiglia, ma proprio di uomo come istituzione, tra virgolette. E mentre invece voi donne avete avuto un'evoluzione maggiore, più veloce. Abbiamo bisogno di corrervi un attimino dietro, secondo me. E questo è per questo che ci fate paura. Grazie Marco, dottoressa Schelotto. Beh, ci sono tante cose da dire. Qua bisogna riscrivere un altro libro, perché devo dire che insieme, tra gli stimoli di Cipriana, Marco, Gioele Dix e soprattutto i nostri ascoltatori, dottoressa Schelotto, qua bisogna rimettersi al computer. Cioè, rimettersi al lavoro, sì. Sì. No, la cosa da cui voglio partire è questa che diceva Marco, dice, perché gli uomini che amano troppo poi non sono mai valorizzati, cioè loro amore non è valorizzato, loro amore non è apprezzato. In realtà, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, in realtà una donna che ha un uomo che la ama troppo è una donna che comunque non riesce ad accettare questo, perché parte da un livello di autostima molto basso. È lo stesso motivo per il quale non accettano che gli uomini, come diceva Marco, come dire, si lasciano andare. Allora nasce una coppia, nasce da un grande amore, e dopodiché cominciano questi duetti un po' penosi, per cui la donna continua a dire, ma non mi dici mai che mi ami, e l'uomo dice, ma te l'ho detto ieri, te lo dica, sono con te, sono sempre con te, vivo con te, lo sai. Ecco, qui è il grande equivoco di fondo, cioè le donne hanno sempre bisogno che questo amore sia loro confermato, come se non fossero abbastanza sicure di averlo meritato. Questo è il punto di partenza. Allora nascono questi disagi delle donne, che non si sentono abbastanza amate soltanto perché questo amore non viene sufficientemente, ripetutamente comunicato, come se loro ogni mattina si svegliassero col dubbio di non aver meritato quest'amore, o comunque di essere sul punto di perderlo. E di qui nascono poi questi grandi equivoci, questi grandi disagi tra l'uomo e la donna. Invece non il nostro Marco Ferradini, l'altro nostro Marco che è intervenuto diceva, Cipriana, che noi donne siamo andate avanti. Lui ha concluso, anche lui mi è sembrato un uomo molto con delle sfumature, con della sensibilità molto femminile, un po' stile Gioele, Cipriana, diciamocelo. Guarda, intanto ho deciso no, ho pensato che devo fare Uomo Moderno. Sì. Devo fare un giornale che si chiami Uomo Moderno. Ecco. Senti, però io voglio venire a Uomo Moderno. Uomo nel moderno, senso, sì. Voglio avere anch'io un piccolo spazio di fianco, piccolo, ma di fianco a quello di Gianna Schelotto, che così mi tiene la mano. Va bene. Ecco, volevo dire questo, che Beh, intanto volevo, scusate, prima che finisca la trasmissione, dire una cosa del libro di Gianna e di Gianna, che conosco come amica da tanto, ma al di là dell'amicizia stimo come professionista, come scrittrice, così, no? E Gianna ha la capacità di dire delle verità scomode. Sì. Il fatto che sia femminista, sia stata e sia femminista, cioè per femminista intendiamo quella che ancora combatte contro le ingiustizie che vengono commesse nei confronti delle donne, non le benda gli occhi, cioè lei poi per la sua professione, per la sua grande obiettività e intelligenza riesce anche a vedere poi, come dire, i difetti delle donne, la loro pesantezza, sicuramente ci sono queste donne pesanti, però volevo dire solo questo, è vero Gianna che queste donne forse per troppa poca stima che hanno di sé hanno bisogno di continue conferme, però è anche vero che gli uomini se ne approfittano un po' di questo loro modo di essere, no? Di questa dice io non so dirlo, te l'ho già detto, ma noi uomini siamo fatti così, io non so, non mi è mai successo mai con una donna di trovarla silenziosa, un'amica, una collega, dire a cosa pensi e che questa mi risponda non sto pensando a niente. Sì. Mentre con gli uomini mi succede. Capita, è verissimo, cioè, verissimo. Dottoressa Schelotto, che così poi sì, sentiamo vero, Marco. Il fatto di sottolineare, come dire, un comportamento maschile non vuol dire approvarlo, nel senso che gli uomini non stanno facendo granché per cambiare, cioè forse non stanno ancora abbastanza male. Che cosa ha portato le donne a cambiare così radicalmente la loro vita? E non soltanto la loro vita, hanno cambiato il costume le donne, facendo la loro rivoluzione quotidiana, e però sono partita dal fatto che stavano male, cioè il fatto di subire iniquità inenarrabili anche nel costume, nelle leggi, nella vita sociale, le ha portate finalmente a rompere questi schemi. Forse gli uomini non stanno ancora abbastanza male, forse la sofferenza maschile passa ancora solo attraverso il privato e non sono riusciti a rendersi conto che ci vuole veramente una mutazione, e quindi che l'amore va comunicato, che le cose vanno dette e che bisogna entrare in sintonia con l'altro e non appartarsi in un proprio mondo chiuso ed egocentrico. Marco, abbiamo un minuto che voglio lasciare a te, come uomo di questo gineceo. Una domanda, a distanza di 20 anni, teorema, se dovessi riscrivere teorema, sottolineeresti gli stessi aspetti o a 20 anni di distanza l'uomo... Secondo me siamo sempre rimasti uguali, la tecnologia è andata avanti, ha fatto grandi passi da giganti, ma le persone vivono di sentimenti, i sentimenti sono rimasti quelli che sono, vengono sempre fuori, anche se le nostre strutture culturali ogni tanto li intaccano, però la verità è che siamo uomini, siamo ancora maschio e femmina, ecco, non uomo e donna, maschio e femmina, e i sentimenti sono una cosa, invece il sociale è un'altra cosa. Io trovo che gli uomini abbiamo sempre proliferato nel senso che è sempre goduto della fragilità femminile, proprio perché le donne non hanno mai capito che anche loro potevano essere forti quanto gli uomini. E le donne sì, possono fare più spazi, fare spazi da gigante, anche perché hanno molte cose davanti a loro. Secondo me, Marco, ne abbiamo fatti davvero tanti. Sì, e io spero. Speriamo sempre di più. Ecco. Speriamo di più. E io spero. La liberazione, anche la nostra liberazione. Certo, Marco. Perché noi siamo schiavi del nostri concetti, della nostra cultura, che ci vuole sempre vincitori, conquistatori, eccetera, eccetera, e anche noi siamo schiavi di questa cultura, e vedete, le donne possono darci una mano. Come? Come? Cercando di farci capire che anche se l'uomo piange, non è un uomo finito, non è un uomo fallito, certo. Non è fragile. Marco, devo salutarti perché devo chiudere. Un abbraccio grande a Gianna Schelotto che ci illumina e ci ha aiutato, a Cipriana Dall'Orto che ci ha fatto così entrare anche nella dimensione delle donne, che a volte invece riescono a essere forti nonostante tutto. Marco Ferradini, il teorema dell'amore, come dicono i magnifici Aldo, Giovanni e Giacomo, speriamo con questa trasmissione di aver messo un piccolo semino per continuare ad andare avanti. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi che ci avete sentiti. Scappo, domani dopo il giro delle 11 ci sentiamo di nuovo. Buona giornata.